eccetera, eccetera, senza però ricordare, perché nessuno probabilmente glielo ricorda, che questo discorso dell'autodeterminazione è partito proprio dal discorso del corpo. È stata la cosa più originale, più dirompente rispetto alla tradizione, quella che ha rotto veramente una cultura in cui noi donne emergevamo a volte più forti, ma a volte anche distrutte, perché era veramente forte il passo che stavamo facendo. Si partiva dal corpo per parlare di autodeterminazione, di libertà, di felicità soprattutto. Il discorso della salute, e quindi di trovare un luogo dove fare emergere tutta questa gioia di vivere, di cambiare le cose, eccetera, erano proprio i consultori autogestiti. E questa cosa è stata a poco dimenticata, e si fa sempre un discorso più tecnico sulla salute. Si cerca un approccio normativo, legislativo, per avere tutto, che poi nel campo della salute già sappiamo, per esperienze anche di paesi più evoluti, che non potremmo mai avere tutto, perché il limite della salute si sposta continuamente, e si dimentica che la cosa più importante che le donne avevano detto era il bisogno di conoscere il proprio corpo, di vivere la propria sessualità, nella possibilità di demedicalizzare il rapporto col proprio corpo. Ricordo quasi sorridendo che era venuta un medico da noi a dire come si diventava ridicole nel momento in cui si aveva un bambino, avevi bisogno di un ginecologo, di un pediatra che ti dicesse metti la carotina, la zucchina, mezza patata per fare la minestrina al bambino, cioè espropriate totalmente della propria capacità di riflessione, no? Questa, come devi mettere il calzino, come devi fare le cose che le donne sanno e conoscono per tradizione. E questa è una cosa da ridere, però dietro c'è anche il fatto che la donna non sapeva più come gestire il proprio corpo per il parto, come lei non avesse più la capacità di comprendere la sua forza. Cioè diventava fragile, debole, sempre. E quindi il consultorio inizialmente è nato con questo proposito. E qui a San Lorenzo noi avevamo uno spazio in cui si parlava tra noi, si socializzava, donne di cultura completamente diverse, si faceva il self-help. Ora io non posso riproporre così tout court le cose col senso del rimpianto del passato, insomma. Alle giovanissime che ormai gestiscono il loro corpo in modo diverso, si devono confrontare con le biotecnologie, insomma, non è un ritorno alla caverna, ecco, questa cosa non l'ho mai apprezzata, però storicizzare sì, cioè capire che certe cose sono state importanti e che con strumenti diversi possono e devono essere ancora sostenute, come quella appunto della possibilità di autodeterminarsi, di conoscersi e di vivere il proprio corpo nel momento in cui è sano, con felicità, o di sapere come fare nel momento in cui ha dei problemi. Ecco, questo è quanto secondo me anche il femminismo ha in parte dimenticato, perché molto spesso è riemerso in un periodo in cui forte sta diventando la disperazione che porta molti al ritorno alle forme tradizionali della religione, della famiglia, il senso di colpa che è stato sempre ributtato addosso alle donne, per esempio nel discorso sull'aborto. E quindi chi è sommerso da questo spirito tenta di cancellare questa storia, che non era assolutamente vissuta in questo modo, era vissuta come un momento appunto di autogestione, di libertà, perché nel momento in cui abbiamo sostenuto la contraccezione, per esempio, era un modo per evitare l'interruzione di gravidanza, nel momento in cui abbiamo parlato di parto naturale, della gioia della maternità, insomma. Sì, poi nel momento in cui, scusa se ti interrompo, si parla di sessualità consapevole, questo io ricordo che è il discorso che tentammo al tempo del mio collettivo femminista di recuperare, anche quello è un modo di fare prevenzione contro l'aborto, no? Nel senso di parlare di donne che si riappropriano della propria consapevolezza, del proprio modo di fare l'amore, delle proprie voglie, dei propri tempi, e quindi in qualche modo non sono in balia completamente degli eventi, no? E quel momento lì rientrava anche il discorso del rapporto con, per esempio, quello che ci forniva la medicina, la scienza e la tecnologia per la prevenzione. Io, qualcuno si è stupito che in un discorso sulle biotecnologie io dicevo: noi abbiamo usufruito anche della scienza con grande gioia nel momento in cui ci dava gli strumenti per controllarci. Se noi abbiamo fatto l'amore usando il diaframma, che era un dispositivo meccanico, se noi abbiamo accettato la pillola per evitare le gravidanze indesiderate e delle interruzioni di gravidanza, se noi abbiamo sostituito l'infuso di prezzemolo, insomma, voglio dire, oggi come oggi si può anche pensare che una donna con il suo desiderio renda possibile l'uso delle tecnologie per avere un figlio impossibile. Voglio dire, la cosa grave è che queste cose non vengano conosciute, che entrano soltanto nel mercato, perché noi anche allora tentammo di levare l'aborto dal mercato, insomma. Il discorso è sempre, rimane sempre quello, no? Come allora dice, evitiamo i cucchiai d'oro, l'aborto è crollato come prezzo nel momento in cui non l'abbiamo fatto. Si potrebbe fare per qualsiasi altra cosa di oggi, no? Cioè, quello che ci preoccupa quindi non è l'ideologia prioristica che ti impedisce di conoscere quello che ci serve. Non possiamo tornare indietro, insomma, cioè, la storia è questa. Però il controllo, sottrarre al mercato, cultura diffusa e autogestione per dove è possibile. La questione è che sicuramente è un dato di fatto che queste strutture dei consultori, delle quali appunto magari se poi ci vuoi anche parlare un po' di come venivano proprio organizzate materialmente, comunque è un pezzo di storia che noi vorremmo conoscere, perché non siamo venuti direttamente in contatto, nel senso forse cioè, ai nostri tempi di adesso non ci sono più, appunto è un dato di fatto che Siamo consultori autogestiti. I consultori autogestiti noi non li abbiamo conosciuti. I consultori che stiamo conoscendo adesso sono un ricordo di qualcosa tenuto in piedi in molti casi da donne di grandissima volontà e desiderio di mantenere in piedi delle strutture che però scontrano contro i mulini a vento. Cioè stiamo assistendo un po' a una rimedicalizzazione di tutto ciò che le donne hanno cercato di togliere all'aspetto della medicina, no? Quindi noi appunto non vogliamo, noi per prime, tornare indietro nel senso di dire ricominciare a farci le visite da sole, no, noi ci teniamo alla nostra salute e vogliamo essere garantite anche dalle progresso scientifico. Contemporaneamente non vogliamo che questo progresso scientifico nelle mani delle lobby, dei medici, dei grandi pensatori della scienza con la S maiuscola si riappropri di qualcosa di cui noi poi non avremo più assolutamente il controllo, no? Sai che sui consultori autogestiti ci sono quasi due fasi storiche e comunque in ogni caso una storia abbastanza breve, nonostante estremamente significativa, come ha detto giustamente Ines prima. Però io volevo dire una cosa rispetto a questo, che mi ha fatto, cioè già pensavo, ma mi ha fatto anche riflettere lei più proprio facendo l'osservazione sul discorso di, soprattutto del fatto della gestione del proprio corpo legata anche alla conoscenza, se vuoi, precedente delle donne, il discorso della medicina alternativa, tra virgolette, perché allora esisteva solo quella nei secoli passati, quella delle erbe, no? La medicina che è sempre stato patrimonio delle donne. Allora io mi ricordo soprattutto negli anni 74, fine 73-74, che quella è stata l'epoca storica della nascita dei consultori autogestiti, poco prima, un anno e mezzo, due anni prima della legge, due o tre anni più o meno. E soprattutto le donne, come diceva giustamente lei, hanno pensato, in base anche a dichiarazioni di femministe storiche, tipo la Collontar, che la repressione della donna passa attraverso il sesso. Quindi il discorso di riappropriarsi anche di un certo tipo di diritto che ci è stato sempre negato, no? Quello del diritto al piacere, del diritto alla conoscenza, del diritto alla scelta. Quindi è chiaro che la scelta viene inevitabile, anche il discorso della prevenzione, della scelta di una maternità, non della scelta di un aborto. Della scelta della maternità sì o no, di cui l'aborto purtroppo faceva parte, visto che rispetto al discorso della contraccezione si era nell'ignoranza più grande. Io vi dico come io me la sono vissuta questa cosa, ma sono sicura che tutte le donne me lo potrai confermare, che noi all'improvviso ci siamo resi conto che pur essendo in Italia, ma nel mondo anche con dislivelli diversi, più della metà della popolazione era italiana, eravamo una metà di ombre, cioè inesistenti, sconosciute. Quindi tutto, soprattutto quello che riguardava il settore femminile, quindi maternità, contraccezione, aborto o salute in generale, però ecco, non è che noi abbiamo pensato adesso pensiamo alla sanità, alla salute delle donne, no, pensiamo a quello che riguarda noi donne, sulla quale tutti decidono e noi non solo non abbiamo diritto di decisione, ma non sappiamo, perché spessissimo, e questo l'abbiamo visto poi con la 194, la maggior parte delle donne che venivano a abortire, a differenza di quello che si aspettava, non erano le donne licenziose, ma erano madri di famiglia, magari con 5-6 figli, che il settimo non lo potevano fare più. Quindi l'ignoranza. Allora, è stata per me un, non so se tu lo vedi, un bisogno di affermazione, cioè c'era tante cose, oltre che lo specifico del consenso del consultorio, c'era proprio il bisogno di affermazione. E dico questo perché è partito prima dai consultori, poi è stato l'aborto, e diciamo in qualche modo già lo aveva preannunciato il divorzio, perché le donne sono quelle che si sono più impegnate nella battaglia del divorzio, e tutte le altre leggi che hanno riguardato, le leggi sulla maternità, le leggi la bioetica, la riforma della famiglia, tutte queste, quindi un bisogno di affermarsi. E io mi ricordo questi consultori autogestiti erano nati proprio veramente con quello che poi è stata la legge, cioè la legge si è ispirata a questa realtà, ecco, che era un posto di prima, capito? Sono certo. Nati con questo, il bisogno delle donne di vedersi, di parlare di questo, quindi di contare, di esistere, di non essere le ombre, e quindi chiaramente l'aborto diventava uno dei problemi più comuni, perché poi soprattutto era una cosa rivolta alle giovani. Nel frattempo, qui volevo toccare il problema che aveva tirato fuori lei sulla scienza, anzi che tu gli hai chiesto sulla scienza, e mi veniva in mente mentre parlavate che la scienza è in mano al potere, quindi è gestita da un potere maschilista chiaramente, ma non è patrimonio dei maschi, cioè donne scienziate ce ne sono state, non sulla medicina, ma cioè, pensiamo a Madame Curie, ma ce ne sono tante altre, e ci sono anche ora, e ci sono scienziate anche di rilievo, pensiamo in un altro campo, pensa a Margherita Hack, sì. Voglio dire, ce ne sono tantissime. Bisogna molto vedere se basta essere una donna scienziata. Beh, vabbè, io ho nominato Margherita Hack e non un'altra intensivamente. L'ho scelta apposta, se no avrei scelta un'altra, ho scelto apposta una che ha una visione del mondo un po' particolare, anche se non è proprio sulla sanità. No. Quindi l'ho scelta con intenzione. Però voglio dire, quindi era un modo di riappropriarsi anche di una cultura che le donne già comunque avevano come patrimonio, perché non è questa la sede, ma se facciamo la storia dell'aborto nei secoli, le donne nel Medioevo, che è stato considerato il secolo dello spirito religioso, erano i periodi in cui si facevano più aborti, e lo facevano le donne, con le medicine, con la medicina alternativa. Chiaramente questo è stato sottaciuto dalla cultura, cioè, ufficiale. Attualmente sta riemergendo. Sì, ecco, allora ritornando a questo, il nostro desiderio era questo, quindi ci siamo serviti appunto delle donne che comunque si interessavano più della scienza e che magari erano andate in America dove avevano imparato il Karman e quindi avevano... Per esempio il nostro centro Simonetta Tosi e aveva imparato invece andando a Parigi, c'era già l'MLAC. Sì, sì, però è successo, sì, cioè prima erano in Europa, c'era, l'avevano portato l'americano. Sì, che era il movimento, sì, femminista francese, sì, che faceva corsi, metteva a disposizione, sì, proprio. In Europa l'avevano introdotto proprio loro, portandolo dall'America dal dottor Karman, perché quello si chiama Karman perché l'aveva creato lui questo sistema, per aspirazione, no? Certo. Quindi questo, secondo me, per esempio, è una cosa di un grande significato, ma non tanto per il discorso che è rappresentativo della crescita della scienza, del cammino della scienza, ma più che altro perché è le donne che si sono curate, cioè la scienza, ecco, lei ha tirato fuori il discorso anche della bioetica, Cioè, spessissimo capita, no? Mi è capitato di starci, noi abbiamo seguito pure un seminario su questo, ma spesso le riunioni sono fatte che non ci stanno donne, eppure è un discorso che si fa sulle donne, voglio dire. Quindi, ecco, se non fosse stato per le donne che si aggregavano, si associavano e che trasportavano questa conoscenza alla massa praticamente non... diciamo il potere o comunque la scienza ufficiale non le avrebbe messe a disposizione se non attraverso lotte. Ma stringo, non è questo il discorso. Forse Ines voleva dire una cosa. Volevo dire che portare un esempio brevemente, l'esempio di come eravamo organizzati qui noi a San Lorenzo, come eravamo organizzate, che appunto è stato poi esemplare anche per tutto il discorso successivo dei consultori. Perché Simonetta, per esempio, è stata chiamata a fare i corsi di formazione poi per i medici, sia dei consultori che quelli che facevano l'interruzione di gravidanza. Puoi alzare un po' la voce? Oppure avvicinarti un po'? Allora, il discorso è questo, che qui attorno noi eravamo un centinaio di donne, eravamo veramente molte, perché Simonetta si era staccata prima dal Pompeo Magno, proprio perché il Pompeo Magno poi, come voi sapete, aveva una storia di lesbismo che non accettava il discorso in generale, no? Di affrontare di petto il discorso dell'aborto, della contraccezione, certamente non le riguardava molto. Per cui Simonetta invece era indirizzata, veniva da Torino, che era indirizzata a questo, con un gruppo di compagni qui a San Lorenzo prendemmo via dei Sabelli in affitto i locali. Però brevemente come era organizzato, prima di tutto eravamo un collettivo e quindi c'era anche proprio il piacere di stare insieme, abbiamo riscoperto l'uscire di notte e di sera, queste pizzerie di San Lorenzo accoglienti, allora era molto più semplice adesso, eccetera, quindi anche proprio il piacere di stare insieme, di far tardi la sera, di non aver paura, eccetera. Poi eravamo divise in gruppi, per cui una parte aveva imparato... Però tu stai parlando di quando già erano nati i consultori ufficiali? No, nel 73, 73. 73, 74, qui è nato San Lorenzo, 73. Sì, il periodo di consultori autogestivi. Allora, Simonetta aveva... creato un gruppo in cui insegnava insieme a Ulla Tenenbaum, che era la più anziana ostetrica di Roma, la più anziana ostetrica di Roma oggi, ma allora era la più evoluta rispetto alla situazione di conoscenza del problema e che ha insegnato a tutte a tappeto l'uso del diaframma, la misurazione, eccetera. Per cui, come diceva anche lei prima, non erano le donne medico che misuravano il diaframma, eravamo noi, cioè nel senso ci avevano insegnato la misurazione del diaframma, l'ho fatto meccanico, col dito misuravamo la lunghezza della vagina, da lì veniva il diametro del diaframma che dovevamo mettere, l'uso della pomata spermicida, quindi c'era molto importante questo aspetto qui, però per essere capaci noi di fare questo con le altre, avevamo bisogno prima noi di superare il nostro problema del rapporto con il nostro corpo e quindi... c'era questo bisogno di guardarsi con lo speculum, di farci vedere le parti del corpo e questo addirittura qui a San Lorenzo c'era il prete allora che diceva che noi facevamo le sporcaccione del consultorio perché ci mettevamo tutte quante in gruppo passandoci lo speculum, prova tu, guarda tu, vedo io ricordo ancora come un sobbalzo con lo specchietto, con un sobbalzo tremendo nel momento in cui ho provato io per la prima volta a mettere una compagna lo speculum e ho visto una goccia di sangue, in realtà era la mestruazione che iniziava forse stimolata però per me che non ero un medico è stata un'emozione, cioè credevo di averle fatto male, cioè esperienze che insomma hanno segnato un po' la nostra vita. Ecco, questo ho quindi gruppo del self-help perché noi potessimo trasmettere, perché importante per esempio era la socializzazione. Il sapere non doveva essere patrimonio di una sola, c'era il piacere di trasmetterlo. Spesso questo ha portato a dei fraintendimenti, nel senso che in ogni caso si sono create delle donne leader che purtroppo hanno subito forse anche hanno subito anche il dolore di essere considerate nel senso che non è, era un fraintendimento, le differenze ci sono, noi in quel momento sognavamo proprio l'uguaglianza totale tra noi, l'abbiamo capito, per esempio questo è un patrimonio che voi potete sfruttare bene senza questa voglia per forza. Se, ma sai che io pensavo, mentre tu parlavi di questo, pensavo soprattutto ai primi, anzi al primo, a uno dei primi consultori di Roma, che è quello della Magliana, E questa storia delle leader spesso nasceva anche per un fatto, perché San Lorenzo è stato sempre un quartiere molto politicizzato dalla guerra, da sempre, per cui già c'era un approccio diverso delle utenti, non saprei come chiamarle, delle donne, che se gli utenti non mi piace. Però lì noi, io invece mi ricordo, siccome noi lavoravamo spesso in questo della Magliana, che veniva, sì, anche lì era una zona abbastanza politica, però chiaramente un livello un po' diverso, un po' più, direi, più proletario, con un significato. Sì, ecco qua, Elena, Rossana, tutte quelle che poi partecipavano all'occupazione di Martino. E con loro spesso il discorso delle leader era legato a questo fatto che poi alla fine non è che molte ti seguivano sul discorso della contraccezione, ma più che altro ti seguivano soprattutto per i loro bisogni. È normale, purtroppo chi fa politica lo sa che questa è la cosa. E allora usciva fuori l'aborto, ecco perché poi hanno cominciato le compagne a fare gli aborti clandestini. E si sperava che questa cosa servisse, secondo me sicuramente è servita anche per una buona parte di crescita, perché il discorso che diceva lei di questa calore, di questa comunicazione, l'imparare a stare insieme è una cosa, d'altronde è una cosa delle donne al di là della questione dei consultori abbastanza nuova negli anni 70, perché molti partiti collettivi hanno avuto la crisi nel 73, le spaccature rispetto al risorgere del femminismo, per cui era, diciamo, una pratica che non era, che era molto contrastata nell'affermazione. Sì, però nella nostra esperienza l'aborto, sì, è stata una cosa un po' diversa. Sì, però lascia finisce una. Sì, no, perché io siccome volevo parlare in particolare di questo, non del. Allora magari tu parlavi di quello, volevo parlare dell'aborto. Ecco. Perché lo volevo legare soprattutto alla questione della legge, in qualche modo, ecco perché. Perché in realtà la proposta Formisano, ma insomma Storace, perché tanto lui è d'accordo, è paramente in questo, non dice chiudiamo i consultori, capito? Non dice questo. E quindi ecco perché è importante parlare di che, com'era la storia e del significato di quello che erano, di quello che noi volevamo che fossero e quello che vogliamo che siano ancora. Capito? Loro le dicono sì, dove sta, però lo trasformano, infatti, cioè molto paraventamente questo. Allora ecco perché io volevo parlare in particolare dell'aborto, perché purtroppo, alla fin fine quello che è rimasto nei consultori è questo, è la pratica dell'aborto, mentre diciamo chi come noi ha combattuto per la nascita dei consultori ha combattuto di una serie di significati, di tutte le cose che voleva. Infatti, diciamo, tirato fuori è molto questo che noi volevamo tirare fuori da questa trasmissione, nel senso giustissimo quello che tu stai dicendo, no? Però in molti casi noi lo avvertiamo anche con un limite, perché è vero, loro stanno cambiando, cancellano la legge sull'aborto, aboliscono i consultori, che in sostanza ultimamente sono diventati il posto dove si va ad abortire. Io personalmente non ho remore morali di alcun tipo rispetto all'aborto, dopodiché rispetto al discorso che faceva Ines è un notevole cambiamento rispetto al passato, no? E poi altra cosa che volevamo mettere in luce è proprio questo, cioè che ormai noi donne rispetto al nostro corpo siamo invitate a parlare soltanto quando si parla di aborto o di ultimamente tumore al seno, perché certo, va di moda parlarne. La prevenzione, certo. Invece, come lei ha sottolineato all'inizio, queste esperienze erano il frutto di un portato di tantissime emozioni, tantissime idee, e che hanno appunto portato alla riflessione sul corpo che andava notevolmente oltre l'aborto, la salute, cioè che comprendeva tutte queste cose ma andava anche oltre, e che forse è quella che oggi può ancora avere un valore, cioè ricordarci che cosa è stato che ha fatto esplodere tutta quella serie di movimenti, di cose, che era appunto la riflessione sul corpo, e che ancora oggi in forme diverse è necessaria, perché anche noi non vogliamo sempre parlare solo di aborto. Il corpo rimane ancora oggi una contraddizione visibile, il corpo delle donne è una contraddizione visibile in tante, per tanti motivi, sì, che però possono essere la razza, possono essere la prostituzione, certo, eccetera, e che si va un po' perdendo, e ci viene chiesto invece sempre e soltanto di difendere. Però di difendere. Vedi Silvia, io volevo dire una cosa, che ho parlato nei consultori di gestione dell'aborto, però non con questo volevo dire che in fondo era il tema focalizzante di tutte le donne, assolutamente, tant'è vero che i consultori, la legge sui consultori, quella nazionale è stata fatta nel 75, quella regionale nel 76, l'anno successivo nel Lazio, e praticamente quando sono state fatte queste leggi l'aborto ancora non era legale, per cui praticamente i consultori non è che erano nati sull'onda della richiesta, no, assolutamente no, erano nati con tutti i significati che noi volevamo dargli, cioè questo discorso di stare insieme, questo discorso della conoscenza, della prevenzione, della scelta di una sessualità consapevole, di una serie di cose. Tant'è vero che la legge del 75, sia quella nazionale che quella regionale, prevedeva degli articoli e negli articoli delle cose molto avanzate per l'epoca. Legge per esempio il discorso dell'assemblea delle donne, che era una cosa molto significativa, è una cosa che ha funzionato un periodo brevissimo. Poi c'è stata la battaglia dell'aborto, quasi contemporaneamente. La battaglia dell'aborto è una cosa che è stata casuale, a prescindere, lasciami finire. E sta la battaglia. Poi passiamo alla parola, finiamo. Sì. La battaglia dell'aborto, diciamo, nel movimento delle donne si è discusso molto su questo. E noi donne combattivamo aborto libero per non più abortire, cioè non è che era un tempo, capisci? Era sempre legato in fondo al discorso che facevamo sia sulla sessualità che sulla contraccezione, quindi solo che gli aborti allora c'erano i cucchiai d'oro, c'era una cosa, noi abbiamo fatto battaglie contro i cucchiai d'oro. I cucchiai d'oro che sono poi gli aborti a pagamento nelle cliniche. No, e quelle dei spalloni allora, le stesse, che te vanno l'anno del 78, per spiegare una terminologia. Le stesse allora, la San Michele, la Villagina, le stesse, cioè, gli spalloni. Gli antiabortisti di oggi, di quello. Sì, gli stessi di allora. Quindi, però, purtroppo anche lì lo Stato ti ha risposto con una legge, quella della 194, sicuramente non è come questa dei consultori, che è stata frutto di una mediazione. Basta pensare al fatto dell'obiezione di coscienza. Ora, il discorso, io qui vorrei, perché sennò facciamo una storia che non finisce più, vorrei ritornare a parlare del repartino, perché in qualche modo si allaccia, non a caso poi c'era Simonetta, l'occupazione del repartino, perché lì poi non era un posto dove si abortiva solamente. Noi facevamo i corsi di self-help sotto, a piano terra, e le donne quando venivano e abortivano, poi il pomeriggio noi, quelle perché facevamo i turni, voi sapete il repartino è, per chi non lo sa, insomma per le giovani generazioni, è il reparto di ostetricia del Policlinico Umberto I, che questo reparto era un reparto molto grande, ben attrezzato, perché era attrezzato anche con per la privatistica, insomma, no? Quindi con bagni, insomma, non da ospedali pubblici, che stava lì chiuso, era stato tutto ristrutturato, pulito, con la perfunzione, perché non si voleva far partire la 194, nonostante era già legge. Praticamente con compagni, anche compagni interni, le associazioni femministe hanno deciso di attivarlo. È stato aperto, l'abbiamo occupato e siamo stati circa 3 mesi e mezzo in occupazione, e chiaramente lo Stato ci ha cacciato quando ci ha preso sulla stanchezza, non ce la facevamo più. Però lì è partito con le intenzioni che erano quelle appunto delle battaglie precedenti sul consultorio, la contraccezione, facevamo un'indagine, studi su, chiedevamo alle donne ma tu perché, una serie di cose, i corsi sotto, poi io mi ricordo la mia esperienza poi tra l'altro personale, che siccome lavoravo arrivavo sempre spessissimo tardi, chiaramente arrivavo e mi toccava pulire la sala operatoria, pulire i campiletti, mi toccava fare sempre le cose pingrate. Però poi il pomeriggio, dopo che noi avevamo dato da mangiare, o anche la sera, secondo me ci mettevamo lì, e dopo una giornata di fatica mi passava tutta la stanchezza, perché parlavamo con le donne e io ritrovavo quello spirito di cui aveva parlato lei. E riuscivi, e in un arco di un giorno o due, tu riuscivi a creare una comunicazione con queste donne. Ed è probabile questo che sto dicendo io, perché quando dopo un mese è venuta la polizia, ci ha chiuso e ci ha cacciato via, ha chiuso il ripartino a mezzogiorno, a luna c'erano 1500 donne davanti all'ingresso e l'abbiamo riaperta. In mezz'ora abbiamo organizzato una serata, là davanti l'abbiamo riaperta. Quindi questa comunicazione, questa solidarietà siamo riusciti a crearla, e gli altri due mesi, noi 2 mesi e mezzo l'abbiamo fatti con la polizia davanti all'ingresso, con i mitra, no, per le scale, con i mitra davanti, e noi abbiamo continuato a lavorare a fare questo. Però se non era per questo la 194 non partiva. D'accordo, ti devo interrompere, scusami, perché abbiamo poco tempo, sì. Io volevo ridare un attimo la parola a Ines, che alla fine... Volevo soltanto riprendere il discorso sul rapporto tra aborto, consultorio, sessualità. C'è una cosa che anche nel discorso, così come l'abbiamo impostato qui, rischia di cancellare una parte importante della riflessione sul movimento delle donne, e che in realtà è complicato trasmetterlo, perché l'aborto allora non fu una lotta casuale, assolutamente, fu una cosa... anche perché è una chiave di volta. È stata una chiave di volta, nel senso che potrebbe essere anche oggi, non l'aborto come vi viene riproposto a voi, che in fondo in una problematica attuale, posso anche dire che è secondario, che non è più da fare tutta questa storia se ci abbiamo veramente poi donne che possono scegliere la maternità come vogliono rispetto a noi. Bisogna ricordare che fu un elemento di rottura fondamentale, importante e drammatico, anche per chi lo scelse. Il destino, le donne ci morivano. I medici ci guadagnavano, nessuno lo dichiarava, la Chiesa spesso dava la scomunica dei cattolici che facevano l'aborto, e era un grande dolore, una ferita che io, che parlavo con le donne che andavano a Londra, ricordo benissimo. Quindi l'aborto è nucleare, il controllo sul corpo della donna, cioè quel corpo che generava, perché poi era stato con un uomo, questa cosa accadeva, aveva una società patriarcale che lo cancellava. Quindi non ha fatto quello, è stata proprio una lotta di azione. Vabbè, ma chi è che ha detto che è casuale? Come può essere casuale una cosa sua? No, infatti adesso non stiamo a fare, cerchiamo di capire il valore delle cose che avete detto, a prescindere. Il discorso che volevo dire è questo, che in tempi diversi si possono presentare argomenti e situazioni diverse della nostra vita sessuale, la nostra vita sessuale, potreste partire anche dalle violenze che attualmente vengono sui corpi delle bambine, sui corpi delle... voglio dire, per capire che cosa significa il controllo sul corpo. L'aborto in quel momento era una di quelle cose che ti permetteva di esprimere totalmente la ribellione a questo tipo di legge patriarcale. E per quanto anche questo controllo faccia paura, appunto, in questo senso, no? Sì. Che sia il potere delle donne, in certo. Effetti, è inequivocabile. Io, così, perché hai nominato le biotecnologie, mi sono ricordata anche tutte le battaglie dell'anno scorso sulla legge, sì, sulle certo. Tecniche di riproduzione assistita, il cui nucleo poi di riflessione era esattamente certo, questo. Cioè, con questa scusa del tecnicismo, del razionalizzare, in questo caso, vabbè, i consultori, che poi appunto sono già ambulatori, per cui certo. In realtà... eccetera, poi in realtà quello che si nasconde è esattamente questo, il bisogno del potere di questo sistema di controllare completamente il corpo delle donne, la capacità infatti, riproduttiva che è. Ed è la capacità infatti appunto riproduttiva, e quindi anche il suo forse senso politico, e non semplicemente certo. Racchiudibile esatto. Nel discorso sulla salute, che molto spesso non da noi naturalmente che siamo qui, ma da altri viene certo. Inteso in maniera assolutamente riduttiva, no? Invece sì. Anche il discorso sull'aborto, come Ines ha sottolineato, come è venuto fuori anche da Emma, è stato un discorso che aveva una valenza politica enorme, a prescindere anche dal suo significato pratico rispetto alla vita materiale delle donne. Un'altra cosa che volevo dire qui prima, purtroppo credo che il tempo a nostra disposizione stia terminando, e che io spero che torneremo a parlare di corpo in un altro momento con voi, anche in relazione a queste biotecnologie appunto che sono uscite certo. Fuori tante volte, perché come dicevamo anche con le due donne che stanno qui in questo momento, come dicevamo in una delle pause in cui non eravamo in diretta, insomma, è importante che le donne parlino di queste cose, perché probabilmente sono le donne, intendo le donne organizzate, le donne che hanno riflettuto, le donne di cui abbiamo parlato qui, sono quelle che forse con più cognizione di causa possono parlare di queste cose, perché se, non, cioè, se hanno parlato per 30 anni, da 30 anni a questa parte, di corpo, non lo hanno fatto così a livello superficiale, parlando di smalti, io dico, ma anche senza essere scienziate o laureate in medicina, hanno fatto una riflessione da 30 anni a questa parte sul corpo, che sicuramente è importantissima anche per la riflessione su queste nuove forme di, appunto, a queste nuove tecnologie di indagini sul corpo, di cambiamento del corpo, di intervento, eccetera. Quindi, appunto, e questo va ricordato, perché Ines ci faceva pure un esempio, appunto, di un recente convegno che c'è stato sulle sulla bioetica e sulle biotecnologie, dove le donne non sono state proprio invitate a parlare, perché non erano scienziate con la S maiuscola, mentre sono gruppi che ormai lavorano da anni e che effettivamente hanno un'autorevolezza in materia. E quindi speriamo che sono scienziate di... sono pure abbandonate, perché io mi ricordo un convegno sempre organizzato al CONI sulle biotecnologie e c'erano vari big, no? Di varie strutture, e c'era, tra le altre cose, uno a caso degli interventi che mi ha colpito poi di più, c'era una dottoressa del CNR che faceva parte di un progetto, quindi lei faceva delle ricerche sulla capacità riproduttiva, insomma sulle donne in particolare, soprattutto su appunto la fertilità, no? Sì, sulla fertilità, ma anche sulla possibilità e legame con le biotecnologie, queste cose qua. E lei in questo studio diceva, per esempio, io mi sono resa conto che in fondo nei budget anche delle istituzioni si è, siccome attraverso questo ho visto anche una serie di possibilità di correggere magari delle malattie o delle anomalie, o comunque per esempio delle insufficienze, parliamo anche della fertilità, cioè, sono studi, cose che si potrebbero portare avanti con facilità, perché non sono cose difficili, però non abbiamo la possibilità di farlo, perché rispetto a questo è stanziato moltissimo, molto poco. Per cui, cioè, io stessa mi trovo nell'impossibilità di... Ed è un intervento che è quasi caduto nel vuoto, cioè il pubblico, sì, le donne chiaramente, però secondo me l'istituzione, non ero solo donne, c'erano donne e uomini. Non è stato, per me è stata una denuncia grave, dico, cavolo, se parliamo di... Era un convegno sulla bioetica, quindi parliamo di questo, una donna scienziata, perché è una ricercatrice, era lei, faceva una osservazione di questo tipo e nessuno è rimasto allarmato, cioè a me è una cosa che... Infatti mi difendevo, preso anche lei, ma l'ha chiesto anche di sentirci. Dei contatti, no, invece in altre circostanze la potevamo chiamare, perché insomma non è preparata, ce lo dovrei avere, mi dispiace, perché fece un intervento molto bello. Non so se vogliamo concludere con un'ultima battuta. Pare che lì c'è una compagna che fa dei gesti. Sì, gesti sperati. No, soltanto che è molto importante, che per me è questa la cosa, la conclusione, che siate voi così giovani che prendete questo discorso, perché secondo me una cosa che forse abbiamo sbagliato è proprio la trasmissione. Mi chiedo infatti per quale motivo, essendoci anche oggi tantissime occasioni di rivendicare proprio l'autonomia, l'autogestione, eccetera, perché poi siate così poche. Cioè, nel senso che non è questione, non mi sento di condividere questa tua responsabilità, assolutamente, anzi sì, proprio per quello, perché loro fortunatamente danno per, cioè le giovani insomma danno per scontato delle cose, vuol dire che in effetti le abbiamo trasmesse, perché se so e che magari il timore che abbiamo noi di perdere è legato a questo, perché noi abbiamo faticate e loro no. D'accordo, soltanto che io penso che in realtà forse perché noi gli trasmettiamo delle cose come dei valori indiscutibili e loro pensano che devono partire sempre da quelle, in realtà questo loro dovrebbero capire le nostre passioni perché poi ci mettano i loro contenuti. Certo. Cioè non è che dobbiamo capire. Sì, forse questo è un limite, in effetti, dobbiamo far capire. Questo è sicuro, dopodiché un po' è anche vero che siamo, insomma, adesso senza fare delle cose troppo così strappacuore, è vero che ci sono state delle conquiste che quando noi siamo cresciute erano già date, radicate, sì. E che sono di più diffuse di quanto non sembri, e che quindi è vero che si è più restie a ricordarsi di cosa sono state frutto, e quindi a riproporre anche quel tipo di modo di vita, essere capaci di lottare per qualche cosa che si vuole ottenere. Molte cose noi ce le abbiamo già e non ci rendiamo conto bene di che cosa vuol dire non averle, perché comunque, insomma, appunto, il consultorio ce l'abbiamo, il rapporto con il nostro corpo ce l'abbiamo, perché non c'è mamma religiosa che ci dice non ti toccare, e quindi tante cose magari non sembrano scontate, per fortuna, perché insomma in fondo non è che lei ha ragione di che noi dovremmo far capire, però io invece ancora le trovo così belle che loro riescono a farla per scontare, che mi ricordo. Beh, infatti, quanto diciamo per che magari rilanceremo con le prossime trasmissioni tutte le questioni che non diamo più per scontate, sono appunto che quelle dobbiamo, sulla dare, bioetica, certo, sulle biotecnologie, che invece sono una questione aperta di adesso e sulle quali ancora adesso non ci abbiamo necessità, non approfondimento. D'accordo. Va bene, grazie, noi chiudiamo, salutiamo, ciao. Ciao. Ciao.